sé yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi cercheremo di trasformare la nostra vita in letteratura. Abbiamo più volte annunciato che sarebbe arrivato questo giorno. Oggi inizia l'esperimento della trasformazione di carne in letteratura. Vi faccio una piccola premessa, perché molti potrebbero rimanere perplessi, non tutti è detto che seguono questo nostro vaneggiare su Facebook, sui vari luoghi in cui si articola il pensiero più folle, prende forma e si contamina e trova seguaci e trova consensi. Ci sarà tra poco, dal 14 al 18 maggio, la Fiera Internazionale del Libro a Torino. È un importante appuntamento che c'è ogni anno al Lingotto Fiere, ma quest'anno in particolare parteciperà questa radio. Questa radio parteciperà con varie iniziative e poi vi saranno via via annunciate. Nell'ambito della partecipazione di Radio 24, anche Melog avrà due giornate, il 14 e il 15, che trasmetterà in diretta appunto da uno studiolo ricavato all'interno del Lingotto. Per dare un senso a questa giornata, soprattutto per giustificare, per dare contesto glorioso al fatto che ci produrremo all'aperto, in esterna, a contatto fisico con il pubblico che ci ascolta e siamo nel tempio della celebrazione del libro, abbiamo deciso di trasformare le nostre vite, ma ancor di più la nostra carne, in letteratura. Cosa significa? Significa che noi, come abbiamo iniziato a fare oggi, come continueremo a fare i giorni seguenti, cercheremo di prendere delle porzioni della vita di ciascuno di noi o di voi che ascoltate, momenti apparentemente indifferenti, momenti che secondo una lettura comune non meritano celebrazione, e ci sforzeremo attraverso il sortilegio che ci permette appunto il mezzo radiofonico di trasformarle in letteratura. Quindi inizia da oggi una sorta di esperimento immersivo e partecipativo che non potrà essere fatto se non ci sarà la vostra collaborazione. Quindi il numero lo conoscete, 800 24 00 24, si inizia. Tenteremo per la prima volta un ardito esperimento di trasformazione di esseri umani in libri. Metteremo in onda in diretta perigliosi esercizi di autoletteratura estemporanea. L'esperimento prevede la trasformazione letteraria di un vissuto reale, di un brandello di esistenza, di una porzione indifferente della nostra giornata. Il tema del Salone del Libro è proprio io e gli altri, occasioni per uscire dal guscio. Naturalmente il punto di attacco melogmane è abbastanza diverso e trasversale rispetto al tema generale della letteratura, della conoscenza, della contaminazione, dell'elaborazione del pensiero, delle emozioni attraverso un testo. Noi siamo convinti che il testo siamo noi. In una forma nuovissima, contemporanea, che tutti stiamo vivendo, di trasformazione dell'epica che ha l'umanità, la maniera che l'umanità ha di raccontarsi epicamente, oggi il testo e il libro, dopo essere emigrato di supporto in supporto, la pergamena, la carta, a tutti i vari supporti digitali, fino all'ultima sua resurrezione, semplicemente in un codice numerico trasformato in voce, trasformato in suono, è nuovamente rientrato nella matrice che genera ogni letteratura, che è la cassa risonante della nostra anima, che è il nostro corpo. Vogliamo che ci raccontiate anche il più banale insulso degli istanti che state attraversando. Faremo di tutto per trasformarlo in puro momento narrativo. Il genere di narrativa che vogliamo realizzare è quello dell'autoletteratura immersiva. Ognuno di noi è in realtà un libro fatto di carne. Noi siamo immersi nelle pagine del romanzo della nostra esistenza. Ci sono vari esempi. Ho davanti dei ritagli di giornale, ma presi in maniera estemporanea, come vuole essere estemporanea questa nostra chiamata. Cosa dovete fare voi? Dovete semplicemente chiamare all'800 24 00 24 e mettervi in quasi fantastica attesa dell'ispirazione che verrà da dentro di voi, descrivendo l'attimo che state vivendo. Voi direte, ma un attimo banale, qualsiasi, comune, sono in macchina, sono per strada, sono dentro casa, cosa volete che ci sia di letterario in questo attimo? Beh, qui vi sbagliate. Ogni attimo può uscire dal quotidiano ed entrare nel mondo del fantastico, nella contaminazione con chi ascolta il vostro racconto, con la stratificazione di stati d'animo, di situazioni, di esperienze vissute che hanno creato quell'attimo fatale, che vale in quanto esce dal quotidiano e entra improvvisamente nel campo della letteratura. Per letteratura, che è un termine che incute timore, incute riverenza, devo dire che oggi abbiamo una visione molto più libera, molto più scaricata di sensi di grande attesa. Immaginate i momenti di letteratura spontanea, letteratura che poi ha valore in quanto si sovrascrive, scompare il giorno dopo, che sono gli episodi, le storie che rimangono attaccate ai giornali. Oggi ce n'è uno che è molto legato all'immaginario di questa trasmissione, la storia bufala di Antonio Brucardi, un giovane stralunato, una foto sfocata apparsa volantinata in tutte le strade di Roma, si vede perduto dentro un enorme seno femminile che lo sovrasta, gli fa da cappello, gli fa da alveo, e lui è lì perduto, sembra quasi che ci si trovi per caso, e sopra c'è scritto: Antonio Brucardi, meno male che c'è Facebook, almeno scoperto da tempo prima di sposarti che sei un porco traditore. Tutti diranno, vedete, il social network ha svelato l'aspetto fedifrago di un prossimo sposo, mandando a monte un matrimonio, mandando a monte tanti invitati. Comunque si è meritato le pagine di tutti i giornali. In realtà pare che sia una sorta di pubblicità virale di un telefilm o di una serie televisiva dedicata appunto a Facebook. Ma tutti ci hanno abboccato, e la maniera migliore oggi per promuovere un prodotto è trasformarlo in qualcosa che abbia il valore di testo letterario. E quindi questa subletteratura transeunte e spontanea passa attraverso la rete, si ferma per un attimo su un giornale. Già a quest'ora il ritaglio di giornale con la storia di Antonio Brucardi sarà nei tanti mercati regionali un ottimo contenitore per rape, lupini, carote e cose del genere. Noi siamo il testo. Noi siamo anche il supporto dove il testo è stato scritto. Quando parliamo alla radio, siamo anche la voce che legge il libro scritto sulla nostra carne. Trasformate la vostra vita in un libro. Fateci entrare nel libro della vostra vita. Noi ci siamo già impossessati delle vite di alcuni di voi, in attesa che oggi, telefonando all'800240024, altri ce ne diano spontaneamente il permesso di prendere, affondare le mani nelle proprie viscere e cercare di ricomporre ciò che lì vive scomposto, perlomeno è mascherato, affogato nel quotidiano, in qualcosa che sia degno di passare alla storia. Pensate come passeranno oggi alla storia, la storia di una giornata di quotidiani decisa ieri sera nelle riunioni di redazione, composta ieri sul far delle 22, uscita all'occhio del pubblico questa mattina e già sovrapposta, scomposta, diluita nell'immuare delle notizie che passano sopra. Che la storia dei due sederi delle First Lady, Letizia Ortiz e Carla Bruni. Tutti i giornali oggi parlano di queste due elegantissime principesse, l'una francese, l'altra spagnola, donna al vertice di tutte le attenzioni e tutti i desideri. Fingono e simulano i giornali di parlare della loro eleganza, del loro charme, dei loro abiti firmati, ma in realtà tutti i giornali immortalano i loro sederi. Sono i loro sederi al centro di tutte le attenzioni oggi, ma nessuno ha il coraggio di dire: guarda, belli, i titolati, coronati e principeschi culi più desiderati del mondo. No, tutti parlano degli abiti, delle scarpe, delle pettinature, dello charme. Non si nomina questa parola. Perché? Perché c'è una serie di parole innominabili, c'è una serie di situazioni impronunciabili, una serie di sensazioni, di emozioni delle quali è molto difficile parlare, ma noi le abbiamo prese, rubate e trasformate in un romanzo. La polvere sul lampadario. Io mi sono sposata giovanissima e ho avuto un rapporto prematrimoniale intorno, frequentavo ancora le magistrali, quindi prima dei 18 anni. L'ha amato una volta, quel giorno di primavera. L'ha amato da ragazza per farlo contento. Per amarlo, ha saltato un giorno di scuola e sa che è stata cattiva. Mi vergogno, mi sono sempre vergognata per tutta la vita perché sembrava una satanata di sesso, quando invece io l'avevo fatto col mio fidanzatino per far piacere a lui. E con questi tabù nella mente che se partecipavo, facevo peccato o morivo. Poi, non lo so, mi sono anche sposata, ho avuto due figli, insomma queste cose. Ma ciò nonostante, nel lungo rapporto poi successivo, diciamo che, vabbè, io certamente non ho soddisfatto il marito, voglio dire. Le suore le avevano detto che si sarebbe sentita perduta. Decenni da sposa le hanno insegnato a tacere. È bastato soltanto un giorno perché la nostra ascoltatrice, che ieri ci ha raccontato la sua storia di carne dimenticata, di carne non usata a pieno delle sue potenzialità, di carne maledetta o di carne rimpianta. Sembrava un normale racconto di trascuratezza sensuale, ma in realtà oggi l'abbiamo ascritta come una pietra miliare di una serie, di una collana di racconti di donne che cercano di farci capire quanto sia penoso vivere una vita senza avere un contatto gratificante con qualcosa che ci faccia ricordare o faccia loro ricordare di essere fatte anche di carne. E poi questa posizione, queste cose strane, l'essere nudi come due vermi. Chiude gli occhi per non vedere il mucchio di carne che grugnisce sopra di lei. Pensavo al lampadario che dovevo ripulire, al rumore della lavatrice, queste cose qui. Per non vedersi spogliata, guarda il soffitto e il lampadario. È sporco da far schifo. Domani lo spolvererà con lo straccio e il vetrilla. E poi trovavo così ridicolo che più volte, purtroppo, ridevo, insomma. Cristina, buongiorno. Buongiorno, Gianluca. Sei pronta a entrare? Come? Sei pronta a entrare nel romanzo? Sì, sì, nel romanzo, in quel romanzo ora, non lo so, Era il primo volume della collana. Adesso scriviamo il secondo volume. Dopo la storia della nostra amica che guarda il lampadario impolverato, la storia di Cristina. Cristina in questo momento sta stirando. Cosa sta stirando? Allora, è una mattina talmente come tutte le altre, il mio giorno di riposo. Ora, io vi ascolto tutte le mattine, a volte mi fate pensare ad altre cose che in quel momento voi dite, voglio dire, una cosa come la vedo io, poi dopo la trasmissione è diversa. Quindi anche questo è un'altra prospettiva di ragionamento. Ora, questa mattina io sto stirando banalmente, solo che sto stirando tutto quello che gli abiti che abbiamo usato a Parigi qualche giorno fa io e mio marito. Abbiamo fatto un viaggio con degli amici. Ora, ogni abito nello stirare mi viene in mente il posto, gli odori, le persone, l'ippocastano in fiore color rosa, allora, tutto questo, ma non legato a una cosa di ricordo, ma di ricordo anche con altre sensazioni che mi sembrano. Cos'hai sotto mano in questo momento esattamente? Avevo un giacchettino che l'avevo. Posso raccontarlo così talmente tranquillamente. Un giacchettino, un giacchetto che l'ho trovato tutto sporco. Ho detto, ma può darsi in questi giulini della metropolitana, o può darsi quando ci siamo trovati ad attraversare un punto, voglio dire, come mai l'ho macchiato? Quindi queste cose mi hanno dato la sensazione di ritrovarmi lì. Ci siamo stati già diverse volte, ci andiamo, però io dico tante volte quando possiamo nel nostro quotidiano, anche nel mio lavoro che oggi è il giorno di riposo, ci si può allontanare, ma non nello stesso tempo lasciare il momento di lavoro, il momento a casa di quello che si sta facendo, però diversamente ci si può estraniare. Senti, hai mai pensato che gli abiti parigini che metterai nel cassetto assieme agli altri vestiti che sono rimasti a casa racconteranno qualcosa agli altri giacchetti, alle mutande, alle calze, ai pantaloni? Ma io so questo cosa succederà fra di loro non lo so, però io so quello che sento io, ecco, su quello. Ora, del nostro quotidiano è molto interessante dal punto di vista di quello che si può fare tutti i giorni. Ora in questo momento sto stirando, ma della mia vita può essere legato a tante altre cose, ecco. Allora, e lascio la tua vita a scaldarsi sotto la piastra del tuo ferro arroventato, assieme agli abiti parigini, assieme ai ricordi, assieme alle nostalgie, assieme a quello che è già stato. Marinai e sirene. La felicità per un sommergibilista è farsi rapire dalle sirene. Sono un ex sommergibilista. Quando si emerge c'è una sensazione particolare, ma una veramente di completa felicità l'ho avuto diversi anni fa, quando siamo immersi dopo parecchi giorni di immersione anche a quota profonda e siamo venuti fuori al largo della Sicilia, una decina di miglia dalla Sicilia. Il mare era una tavola, c'erano i pesci volanti, era l'alba e si sentiva il profumo delle zagare. Le donne pesce aspettano fameliche nascoste nel profumo di zagara. I marinai, fuori dal pelo dell'acqua, con le teste curiose, cercano tra la nebbia. Quei pochi che eravamo in torretta nella vela del sommergibile, eravamo tutti quanti ammutoliti a vedere uno spettacolo che aveva dell'incredibile. Questo è il sommergibilista, ci ha chiamato pochi giorni fa. Ci sembrava impossibile far rivivere la sua storia senza aggiungere le sirene che noi vedevamo, lui magari non le ha viste, ma siamo sicuri che c'erano. Sentire il profumo delle zagare senza vedere la Sicilia, perché non la vedevamo, però diciamo il vento arrivava dalla Sicilia, e vedere i pesci volanti all'alba. E sotto di noi a 900 metri è passato un capodoglio. Cioè noi, al massimo espressione della tecnologia, un animaletto tranquillo, animaletto pesantino direi, della natura che passava a 900 metri. Sognano abbracci tra carne di femmina e squame di pesce. Ma non sanno che se ardono di desiderio, sfidano balene e mostri marini. Margherita? Sì? Buongiorno. Sta ancora nuotando in mezzo alle sue cernie? Ahimè no, ormai sono troppo anziana per questo, ma questo episodio del nuoto assieme alle cernie risale a più di una decina di anni fa, quando ultra sessantenne ho vissuto l'emozione dell'immersione, della piccola immersione, perché non facevo immersione in profondità, e mi sono trovata, avevo adottato questo sistema, intanto andavo da sola perché non sopportavo di essere in questo ambiente meraviglioso in mezzo ad una folla seppur relativa di immersionisti, e mi sono trovata a nuotare nel senso della corrente quando ero stanca, e venendo io nel controcorrente per tornare verso casa lungo la barriera, ho incontrato queste ombre che mi sono apparse quasi un po' minacciose, devo confessarlo, che mi venivano incontro, e poi mi sono accorta che erano delle cernie, perché avevo cominciato a conoscere un po' questo mondo meraviglioso. Ma vi siete toccati o l'avete soltanto, non vi si siete sfiorati? Non si lasciano toccare, ma ho fatto dietro front e ho marciato con loro, sono nuotato con loro, nel senso controcorrente, quindi andavano molto lentamente. E si è sentita anche lei cernia in quel momento? Assolutamente, non ci siamo toccati, ma ci siamo guardati. Avevo una cernia a destra, una cernia a sinistra, hanno un occhio grande che ti guarda con curiosità, non si lasciano toccare, no. E secondo lei cosa volevano dirle le cernie? Ah beh, non lo so, piuttosto quello che volevo dire io a loro, mi sono sentita molto vicina a quella che doveva essere la vita tanti secoli prima, e mi sono sentita più pesce che essere umano, tant'è che al ritorno di questi momenti fantastici, devo dire, sono rimasti nella mia memoria, sono passati più di 10 anni, sono rimasti nella mia memoria come qualcosa di assolutamente privilegiato che ho vissuto in quei momenti e che non vivrò più, perché vado verso i 72 anni, queste cose oggi... Beh, lei potrebbe buttarsi in mare, magari potrebbe diventare sirena, non è detto. Assolutamente no. Hanno, assomigliano, sa? C'è qualche cosa un po' della sirena, c'è qualche cosa di non solo di misterioso, ma di anche vagamente inquietante in questo mondo dove si incontrano questi pesci che sono amichevoli perché non hanno paura. Melog 2.0. Tenteremo per la prima volta un ardito esperimento di trasformazione di esseri umani in libri. metteremo in onda in diretta perigliosi esercizi di autoletteratura estemporanea. L'esperimento prevede la trasformazione letteraria di un vissuto reale, di un brandello di esistenza, di una porzione indifferente della nostra giornata. Mi sto divertendo ad osservare la reazione di una parte del pubblico, parte numericamente sicuramente inferiore, ma in grande attenzione rispetto alla mia considerazione di coloro che sono capaci a rompere i limiti e le angustie del vivere quotidiano, riuscire a penetrare con il loro pensiero, con la loro suggestione, con il loro suggerimento attraverso i più avanzati mezzi di interconnessione tra esseri umani. Beh, vedo il pubblico di Facebook lievemente infastidito, quasi ironico dell'operazione che stiamo facendo questa mattina alla radio, perché è un'operazione chiaramente retro, è chiaramente dedicata a suggestioni di tipo analogico. Qualcuno mi dice: stai facendo un meglio di con la scusa della trasformazione della letteratura in carne. Ignora il lavoro che ci sia dietro di post produzione, di edizione, di smembramento e ricostituzione di quelli che erano dei messaggi di trasmissioni passate, che palesemente, apertamente abbiamo recuperato, ritrasformato e ricollocato in un altro tipo di universo. Facendolo, naturalmente, facciamo un'operazione che nulla ha a che fare con la diffusa e collettiva maniera di esprimersi attraverso velleità di costruzioni letterarie della propria esistenza, che ad esempio il social network, tutte le forme di espressività del cosiddetto web 2.0, in cui tante individualità hanno uno strumento di pubblicazione di se stessi rapido, immediato e soprattutto con un sistema di immediata comunicazione del proprio pensiero a un numero considerevole di altri esseri umani. E questo porta all'idea che ognuno di noi ha diritto a una sorta di editore individuale. L'editore individuale è un editore che non saggia il mercato del pensiero che pubblica, ma che pubblica qualunque cosa in maniera indifferenziata. Quindi ognuno dei tanti poli pensanti di un social network a volte può entrare nel delirio di dire cose degne di considerazione, degne di attenzione, con unicità e con una portata letteraria che lo pone al di sopra degli altri. E quando vede degli sforzi nel mondo concreto di fare della sperimentazione rispetto alle possibilità che ha un mezzo di espressività come la radio, che non è mai vecchio, ma si ricolloca e si ripone continuamente cercando di adeguarsi ai tempi che sta vivendo e sta raccontando, prova un certo fastidio. Vogliamo che ci raccontiate anche il più banale insulso degli istanti che state attraversando. Faremo di tutto per trasformarlo in puro momento narrativo. Il genere di narrativa che vogliamo realizzare è quello dell'autoletteratura immersiva. Ognuno di noi è in realtà un libro fatto di carne. Noi siamo immersi nelle pagine del romanzo della nostra esistenza. Volevo solo specificare, per chi magari non l'avesse ben capito, che le telefonate che abbiamo mandato in onda poco fa a commento delle parti da noi registrate ed elaborate erano fatte all'istante, al momento. Erano momenti reali di vita e di esistenza di ascoltatori che, ascoltando la nostra trasmissione, hanno chiamato e sono entrati nel gioco, hanno accettato di elaborare in maniera fantastica un banalissimo momento del loro quotidiano. È quello che esorto a fare chi ascolta, telefonando all'800240024. Cuore di mamma. Quante bambine ubbidienti e costumate vengono divorate da dentro dalle loro matrigne? Ho avuto una matrigna splendida, meravigliosa, che è mia madre, tuttora vivente, che ha 89 anni. La pena più grande in assoluto che una persona possa provare, la consapevolezza, la sensazione ovviamente non verbale ma solo ed esclusivamente emotiva di non essere amata. Fata madrina, dove sei con la tua zucca, i cocchieri e le scarpette di cristallo? Non deludere la mamma, restale accanto in silenzio e non piangere se lei affila le lame. Cattiva, cenerentola che puliva, e naturalmente era una bambina obbedientissima, perché più io ero obbediente più la mia mamma mi avrebbe amato. Ovviamente errore gravissimo, perché se la madre non ti ama per quello che sei, non ti ama per l'averti partorito, ovviamente non ti amerà mai più perché tu pulisci la casa o rifai i letti. Mm. Roberto, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Torino. Sono in giro, sono per strada, però avevo pensato a un episodio che ha poche ore di vita, più che altro, più che quello che vedo davanti a me. Davanti a me vedo soltanto una situazione molto simile tra la muffa e Blade Runner, diciamo, ecco, come pioggia. Ieri, in cantiere, il mio lavoro, cantiere edile, si parla di aspetti tecnici, si discutono dei disegni con il capocantiere e a un certo punto trambusto, urla, non si capisce cosa sta succedendo, mi viene un colpo, penso che qualcuno si sia fatto male. Gente che scappa, due o tre persone che scappano rischiando di rompersi l'osso del collo saltando giù dal ponteggio, tutta gente che era, non c'erano operai irregolari o cose del genere. Vedo comparire dei finanzieri che erano la causa di questo fuggi-fuggi e scopro che, cose che purtroppo succedono, il datore di lavoro aveva falsificato i documenti e tra tutte queste persone che erano, in teoria, dovevano essere regolari, c'erano tre persone che erano degli immigrati clandestini con i documenti, permessi di soggiorno falsi, documenti falsi, e sono finito davanti al... Ho terminato la serata sotto interrogatorio, anche io, anche se non c'entravo niente, per spiegare come stava la situazione davanti alla... nella caserma della Guardia di Finanza. Ecco, racconti allora, interno caserma, l'hai interrogato, le facce dei finanzieri? Caserma. Entro in caserma sbianco perché io pensavo di andare lì, come mi avevano detto, semplicemente a spiegare cosa era successo, e mi accolgono invece dicendomi che dovevo nominare il mio avvocato, eccetera, perché l'accusa nei miei confronti era di favoreggiamento di immigrazione clandestina. Ho avuto un momento di... le gambe mi hanno ceduto un attimo, dico no, però fermo, dopo pochi secondi, fermatevi tutti, non è così, vi spiego che non è così. Allora ci siamo messi lì con calma, due ore, dove ho spiegato tutti i vari rapporti di responsabilità civile e penale che hanno tutte le figure coinvolte, ho dovuto spiegarli io, e dove è venuto fuori, insomma, di chi erano le responsabilità, insomma, ci saranno degli strascichi giudiziari pesanti, ovviamente, per questa. Quali sono i segni esteriori, le sensazioni, gli odori, le esperienze tattili che si provano in un momento in cui si è in una soglia particolarissima? Lei ha avuto per un attimo la possibilità, la paura o l'eventualità di perdere la sua libertà. Lei poteva entrare in quel posto e magari uscirne malconcio, non uscirne per niente, o comunque uscirne fortemente compromesso nella sua serenità. Uno ci pensa, mi metteranno le manette, mi metteranno dentro, che succederà? Proprio di andare dentro non ci ho pensato. Ho pensato che sarebbe iniziato un calvario da quel momento, questo sì. Un ambiente illuminato male, un ambiente con un odore anche un po' di muffa, come sono certe caserme di provincia in edifici molto vecchi, silenzio, voci basse, persone che probabilmente, magari un giovanissimo appuntato che non sa usare le parole giuste e quindi dice delle cose a sproposito, e non per colpa sua, perché così magari è un po' brutale quello che gli hanno detto di dire. Ecco, improvvisamente quello che è un ambiente familiare, quello che è qualcosa che lei conosce, che lei sa contenere, sa circoscrivere, sa elaborare, non le appartiene più. Entra in un mondo in cui c'è l'incapacità di poter fare qualsiasi intervento, perché tutto è estraneo alla nostra esperienza familiare. Ma siamo sicuri che le esperienze familiari, quelle più legate agli affetti, alla famiglia, alla fanciullezza, siano quelle che ci segnano in maniera più positiva? Vi siete dimenticati di Cuore di mamma? Eccolo. La mamma ti guarda, la mamma ti giudica, la mamma è bella e non diventa mai vecchia. Un dramma enorme che ha condizionato tutta la mia vita emotiva, perché io sono cresciuta mendicando per tantissimi anni amore a mia madre, una carezza, un sorriso che non ho mai avuto e non ho tutt'oggi. Me lo aspetto ancora, so perfettamente a livello razionale che mia madre non mi stringerà mai a sé, non mi dirà mai ti voglio bene, ma come tutte le persone desideriamo tutti essere amati, perché la mancanza di amore è l'assoluto. Quando tu non ti senti amato, quando tu sei un bambino non amato, sei consapevole di non essere amato, non sei nulla, non vali nulla. Quale dignità puoi avere? Aspetta, bambina, aspetta. E non sognare. La mamma ti guarda anche dentro ai tuoi sogni. 800 24 0024. Siamo dentro una libreria sconnessa, una libreria in cui gli scaffali non sono segnati con quelli che sono i generi dei libri che contengono, e quindi tutti i generi entrano l'uno dentro l'altro e fanno unico e grande racconto di esistenze umane trasformate in qualcosa che potrebbe assomigliare, ma molto da lontano, alla letteratura. Melog 2.0 800 24 0024. Raccontate le vostre storie, noi le prenderemo, le trasformeremo, le spezzetteremo, le renderemo degne di essere ricordate anche da chi non vi conosce. Clonazione di ringraziamento. Lo hanno cresciuto quando non avevano che lui, perché tutto il resto era perso. Io sono stato adottato da due persone meravigliose che, come mi hanno adottato, dopo un anno sono cadute in disgrazia, per cui abbiamo fatto 16 anni di vera miseria. Ma di vera miseria, ma non mancavano mai loro le parole, gli insegnamenti. Da bambino, quando incontrava i suoi compagni di ritorno dalle vacanze, si inventava storie di viaggi in posti mai visti. Dopodiché sono morti e io me la sono cavata da solo. E allora cresce e lavora. Lavora perché la ricchezza torni. Ora vive in una villa con un parco grande e verde. C'è chi cucina per lui e le storie di viaggi non le inventa più. Vedo ancora pronte altre storie che sono desiderose di essere raccontate, vedo altre persone che smaniano dal desiderio di abbandonare istanti di vita alla possibilità che ha la radio di renderli, o almeno regalarli, a una delle tante momentanee eternità. Adesso ho il rimpianto di non essermi potuto sdebitare. Questo è un pensiero che mi segue molto spesso quando si parla di reincarnazione, alla quale non credo, fede o di resurrezione. Ma come dire grazie quando non sai più a chi dirlo? Scienziati cari, nuovi alchimisti, riportateli in vita. Sì, fateli rinascere, clonateli. Il figlio vuole far loro godere delle ricchezze che la vita gli ha tolto. Voi pensate che sia poco desiderare, come è argomento e trama di un'infinità di romanzi, di libri di letteratura, di trattati di filosofia, le persone scomparse, ridare loro vita, ritrovare come interlocutori persone che si sono prodotte in circostanze spazio-temporali diverse dalle nostre. Ivana, buongiorno. Buongiorno. Lei vorrebbe aggiungere la sua storia all'elenco delle tante Cenerentole. Perché no? Bella questa cosa, mi piace questa idea, non ci avevo pensato a questo. E la cosa che più mi attirava era proprio cercare di capire come un lavoro banale, seppur necessario. Si avvicini un pochino magari al telefono. Si avvicini un po' la bocca al telefono che viene meglio. Sì, scusi perché sto con l'auricolare. Sì. Ecco. Pronto? Fatto. Adesso la sentiamo senz'altro. No, volevo meglio. Capire, dicevo, come un lavoro come il mio, così banale, anche se poi indispensabile e necessario, potesse poi collocarsi in questo contesto così fantastico come il mondo della letteratura. E qual è il suo lavoro banale? Cioè, la sto un po' sfidando, voglio dire. Qual è il suo lavoro banale? Il mio lavoro è che io faccio la commerciante, per cui vendo tutto il giorno. Lo trova banale vendere? Tutto il giorno ho la possibilità di farlo per fare, come dice lei, la Cenerentola. La sento un po' instabile nel filo del suo racconto. Il desiderio di rendercelo alle nostre orecchie. È molto indaffarata con il suo auricolare, vedo. Forse questo è il vero punto. Adesso guardi, l'ho tolto e mi metto tranquilla all'ascolto. Ecco, sia ferma. Allora, lei fa la commerciante. Sì. E cosa vorrebbe trasformare di questo suo lavoro in qualcosa di degno di essere ricordato? C'è un istante di questo suo lavoro di commerciante che vorrebbe scritto con lettere più durature rispetto a quelle che racconta ogni giorno la sua giornata, forse banale, sovrapposta l'una uguale all'altra? Non non è facile. Cosa vende lei innanzitutto? Commercia sì, ma cos'è che commercia lei? Commerciante vago. Io vendo abbigliamento. Beh, vende abiti, mi sembra una scoperta quotidiana ogni volta che vede un essere umano e pensa a spogliarlo e poi rivestirlo. È vero. Sì, ma quanti siete in quella stanza, signora? Perché no. Si lascia cullare con l'eco delle sue parole? Spenga la radio e si mette in un angolino. Perché tento di capire qual è il sistema migliore per sentirla e per risponderle. È star seduta con un telefono accanto all'orecchio, signora. Ok, perfetto, mi allontano dalla radio. Sì. È basilare. Ok. E a pochi istanti poi la seguo, perché se non esce la storia, lei non ha diritto di passare alla storia. Ok. Allora la faccio uscire. Cercavo di immaginare che cosa potrei immedesimarmi, pensare di essere, non so, in un altro centro del mondo, in un altro negozio. Ma no, lei dovrebbe bastarle restare dove sta, signora. Lei ogni giorno è in contatto con un'infinità di umanità diversa. Ogni persona che le sta accanto ha la sua storia, ha il suo odore di pelle. Lei deve con un colpo d'occhio immaginare quale dei suoi prodotti stia bene addosso a questa persona e come felicemente questa persona esca con il suo abito addosso. Le sembra poco questo? No, non mi sembra poco. È vero, non mi sembra poco. E adesso mi viene proprio in mente l'ultima soddisfazione che ho ricevuto proprio 3 giorni fa da una signora giovane che ho vestito e che mi ha detto prima di uscire: è stato un piacere essere vestiti da lei. Forse questo è già sogno. Certo, sarà ancora più piacevole poi essere spogliato da qualcun altro. Buongiorno Ivana, Luigina. Certo, vi piace tanto questo gioco. Pronto? Del fantasma e della voce con eco, ma prego Luigina. Buongiorno, io in questo momento stavo spolverando e niente, io sono casalinga e quindi certe volte anche girando per la casa, facendo quello che devo fare, mi sento un senso di estraneità, non so perché. Comunque, volevo riallacciarmi. Le strane alla casa che ormai conosce in ogni angolo, in ogni granello sì, di polvere. Sì, e che tutto sommato amo anche, perché quando faccio viaggi lunghissimi, amo, a volte visualizzo proprio le stanze della mia casa e sento questo sentimento di nostalgia, di voler tornare. Beh, è pericolosissimo, signora, perché lei dopo morta continuerà ad aleggiare per quelle stanze, rendendo inquieta l'esistenza. No, appunto. A chi ci vive? Sono consapevole del fatto di morire. Beh, non tutti è che lo siamo. Sono attaccata alle cose, nel senso che me ne potrei anche separare senza dolore. Però mi è capitato, facendo un viaggio molto lungo in Australia, di sentire la lontananza, proprio la lontananza, la nostalgia e di avere come un senso di paura del fatto di essere così lontano. Ma secondo lei la sua casa ha nostalgia della padrona di casa? Per niente, penso proprio per niente, perché la casa è una cosa inanimata. Beh, è caratteristica degli oggetti che noi trattiamo come esseri umani, a cui dedichiamo amore, ma in realtà sono di una freddezza e di una spietatezza bestiale. Pensi quanto ci innamoriamo di un libro, e il libro cosa ci dà in cambio dopo averlo letto? Nulla. Ci dà tutte le sensazioni e tutte le esperienze che si possono ricavare. Ma rimarrà lì felice, soddisfatto nel suo scaffale anche quando non ci saremo più, come la sua casa, signora, mi dispiace dirlo. Sì, sarà vero, felice quello del nuovo inquilino quando lei non l'abiterà più, quindi la spolveri sì, un po' meno, l'ami un po' meno e abbia meno nostalgia, perché attaccarsi agli oggetti è proprio antitetico a ogni possibilità di elevazione, di fuga dalla realtà che è propria della letteratura. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828-1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.